Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Speciale Come si scrive per ragazzi. Piccoli lettori crescono. In Italia, che è notoriamente un paese di non lettori, sono proprio i più piccoli ad amare di più i libri, almeno di più degli adulti. Ed è per questo che abbiamo deciso di dedicare questo speciale a come si scrive per bambini e ragazzi, come in certo qual modo si riesce ad attirare la loro attenzione. E cercheremo di capire se i bambini che hanno familiarità con i libri poi sono destinati a diventare da adulti dei lettori. Innanzitutto un po' di dati. Allora, complessivamente ha letto almeno un libro in un anno il 45% degli italiani dai 6 anni in su, insomma quelli che sanno leggere. Fra i 6 e i 10 anni la percentuale però è decisamente maggiore, cioè sono il 51%, ma il picco dei lettori, cioè il 65%, si ha nella fascia fra gli 11 e i 14 anni, cioè il 65% dei ragazzi fra gli 11 e i 14 anni ha letto almeno un libro in un anno. Poi, ahi noi, inizia la discesa, insomma a partire soprattutto dai 18 anni. Probabilmente i ragazzi sono interessati a quel punto ad altre cose. Ma quanto è importante che i bambini familiarizzino con i libri fin dalla tenerissima età? Insomma, esiste una correlazione fra bimbi che sfogliano libri e futuri lettori? Lo abbiamo chiesto a Giovanni Peresson del Centro Studi dell'AIE, che è l'associazione degli editori. Esiste ed è fortissima. Se io faccio dei confronti internazionali vedo che i paesi a più alti indici di lettura sono poi quei paesi in cui gli indici di lettura da parte della popolazione infantile sono ancora più alti rispetto a quelli italiani. Quindi la nascita dell'abitudine alla lettura avviene nel periodo infantile, avviene all'interno del mondo della scuola, avviene all'interno delle famiglie. È uscita una indagine Istat sulla lettura, dove accanto ai dati sulla lettura viene riportato il dato della presenza dei libri nelle biblioteche di casa. E viene fuori un dato che a mio parere è impressionante. Solo un 3%, se non ricordo male, delle famiglie del Trentino Alto Adige non ha nessun libro in casa, contro un 19-20% di famiglie che non hanno alcun libro nelle regioni come la Campania, come la Sicilia e come la Calabria. C'è un altro dato ancora più interessante che mette in rapporto la presenza di questi libri nelle famiglie con l'atteggiamento di quei bambini che vivono nelle famiglie in rapporto alla lettura. La relazione è stretta. Quando si parla di educazione alla lettura dei bambini, si parla giustamente delle biblioteche, si parla del fatto che la scuola italiana non ha la biblioteca scolastica, non ha la figura del bibliotecario scolastico come bibliotecario specializzato e preposto alla politica degli acquisti, ma ahimè ci si dimentica spesso poi del ruolo delle famiglie nell'educare i bambini e i loro figli alla lettura. La fascia di età dove c'è il maggior indice di lettura è quella fra gli 11 e i 14 anni. In questa fascia di età legge il 64,7% appunto dei bambini. Dopo invece decresce. E dopo che succede? Cos'è che li fa disaffezionare? Una parte di questi bambini che sono passati all'interno dei processi di scolarizzazione dell'obbligo, in larga parte hanno vissuto la lettura come un obbligo scolastico. Oppure la lettura fatta sull'antologia. Oppure la lettura fatta e non portata poi all'interno della biblioteca scolastica, perché la biblioteca scolastica non c'è. E poi, diciamolo anche, voglio dire, c'è comunque il fatto che crescendo si entra per un certo periodo in altre dinamiche del gruppo, dove la lettura diventa anche un aspetto non proprio centrale nel vissuto dei ragazzi e delle ragazze. E allora cerchiamo di capire come si scrive per bambini e ragazzi, come si fa a catturare la loro attenzione. Partiamo dai piccolissimi, insomma la fascia di età da 0 a 6 anni. A questi libri è stato dedicato quest'anno per la prima volta un premio neonato, appunto, Nati per Leggere, che è organizzato fra gli altri dalla Fondazione per il Libro, in sostanza dal Salone del Libro di Torino. Flavia Manente è una dei giurati del premio e lei, appunto, abbiamo chiesto come si fa a scrivere per i piccolissimi. Sentiamo. Scrivere per bambini non è assolutamente una cosa facile. I bambini piccoli sono lettori attenti, che memorizzano le parole una per una e quindi devono essere belle parole, sonore, che aiutino il bambino anche ad apprendere la lingua materna, i suoni, gli intervalli, la melodia che ogni lingua possiede. Quindi scrivere per bambini in rima, in prosa, scrivere anche con le illustrazioni, significa considerare questo piccolo destinatario molto importante, dedicare una grande qualità. Come si può portare un bambino a diventare un lettore, ad amare i libri? Bisogna innanzitutto che l'adulto che sta con lui abbia voglia, tempo, desiderio e amore di leggere questo libro con il bambino. Questo libro deve essere bello, abbiamo detto che scrivere per bambini è importante, bisogna curare l'aspetto estetico, l'aspetto grafico, ma soprattutto bisogna condividere col bambino le emozioni, quindi non bisogna avere fretta, bisogna dargli un tempo disteso dentro il quale il libro diventa un oggetto relazionale importante. Il logo di Nati per Leggere, che Altan ha disegnato per il progetto Nati per Leggere, raffigura proprio una mamma con un bambino in braccio e un libro tra loro. E questa condivisione, questa empatia che porterà il bambino a desiderare la ripetizione di questo atto di benessere, di star bene insieme, e quindi richiederà successivamente la lettura di altri libri. Starà a noi proporgli via via un panorama di libri molto diversi, così come una mamma naturalmente fa con i cibi quando lo svezza. Lo abitua a molti cibi diversi, quindi varietà di testi, varietà di figure, varietà di formati. L'editoria oggi ci mette a disposizione cose molto belle e dobbiamo usarle con i nostri bambini. Aggiungo e concludo che molti adulti, molti genitori hanno scoperto loro il piacere di leggere leggendo i loro bambini. Abbiamo dunque sentito le esigenze dei lettori piccolissimi, ora proviamo ad alzare la fascia di età, prendiamo cioè i preadolescenti, 8-12 anni. Come si fa a creare un libro di loro interesse? Abbiamo girato la domanda ad una voce nota di Radio 24, Federico Taddia. Oltre ad essere un nostro conduttore, Federico è uno scrittore per bambini e ragazzi con parecchi libri alle spalle. Citiamo gli ultimi due, usciti praticamente in contemporanea, Perché le stelle non ci cadono in testa, scritto con Margherita Hack, e Perché siamo parenti delle galline, fatto a quattro mani con Telmo Pievani. Ma partiamo con il libro scritto con l'Hack. La parola dunque a Federico Taddia. Sono una serie di domande che un bambino guardando le stelle si può porre. Ho preso queste domande e le ho girate a un'astrofisica, la più famosa astrofisica al mondo, che è Margherita Hack. È un gioco, nel senso che abbiamo chiesto a Margherita Hack di mettersi in gioco, di riuscire a trasformare le proprie conoscenze in qualcosa di appetibile, di comprensibile anche al pubblico dei più piccoli, e abbiamo chiesto ai più piccoli di sfruttare la possibilità che avevano, cioè intervistare una personalità come Margherita Hack. Io mi sono messo in mezzo, ho tradotto queste domande in qualcosa di credibile per Margherita, ho preso i contenuti di Margherita e li ho trasformati in qualcosa di comprensibile per i giovani lettori. Dopo che ti sei chiesto perché le stelle non ci cadono in testa, ti sei chiesto perché siamo parenti delle galline. In questo caso ne è nato un altro libro. È nato un altro libro, in questo caso con Telmo Pievani, filosofo della scienza ed evoluzionista, come l'ho presentato io ai bambini, uno dei massimi amici di Darwin al mondo. Lui sa tutto su Darwin. E abbiamo preso l'evoluzione, che non sono solo i dinosauri, che non è solo l'uomo primitivo, che non è solo l'avatar. Però ho fatto tre esempi di cose che si trovano in questo libro. Anche qui con lo stesso schema. Parliamo dell'uomo, parliamo della terra, parliamo del passare degli anni, però anche qui in maniera molto, molto informale e con domande che possono veramente spaziare a 360 gradi. Chiedendo a Telmo se lui avrebbe desiderato avere, che ne so, un dinosauro come animale domestico, quale animale avrebbe voluto essere, se mai potremmo avere il nostro avatar, come giocavano i bambini primitivi, quindi proprio vagando nel tempo e nello spazio per parlare di evoluzione. Immagino che il primo pubblico siano stati i tuoi bimbi. Che cosa ti hanno detto su questi libri? Guarda, li hanno letti e hanno riso molto. Sai che Quando e questo è già un bene. Questo è bello, sai che è una soddisfazione grandissima quando tu comunque riesci a far sorridere un giovane lettore senza essere banale o senza essere volgare, perché vuol dire che hai costruito qualcosa, un percorso divertente, un percorso che riesce a stupirli. Lo stupore quando scrivi per bambini, quando cerchi anche di fare divulgazione scientifica, ti aiuta, è un'arma in tuo possesso, perché se riesci a stupire vuol dire che scateni curiosità, se scateni curiosità vuol dire che scateni voglia di conoscere. Conoscenza, voglia di apprendimento. Per Federico Taddia non si tratta certo dei primi libri dedicati ai bambini, in genere ti concentri nella fascia 8-12 anni, così per semplificare. Qual è il segreto per scrivere per ragazzi? Insomma, in che modo si riesce a catturare la loro attenzione? La loro attenzione riesce a catturarla se sei curioso tu per primo e se veramente tu ti stupisci per primo di quello che stai scrivendo. E poi devi essere semplice e non dare niente per scontato. Questo è fondamentale quando vuoi scrivere per i più piccoli. Però il segreto vero è anche quello di essere imprevedibile, perché se riesci a essere imprevedibile riesci a... è quasi come se fosse un ceffone per loro, no? Dove sono? Cosa sta succedendo? Dove devo andare? E quindi ti seguono perché sono attenti e vogliono capire cosa succede la parola dopo o la riga dopo. Spesso gli scrittori per bambini vengono considerati un po' di serie B. In realtà scrivere per bambini e ragazzi è complicato esattamente come scrivere per gli adulti, no? Sì, guarda, c'è un po' di snobismo, no? Però io per esempio ho iniziato la mia carriera professionale scrivendo su Topolino e tuttora dopo 16 anni continuo a scrivere per Topolino ed è la prima cosa che metto nel curriculum. Cioè ne vado fiero del poter dire che scrivo per i più piccoli. Se tu dovessi consigliare a un bambino o un ragazzo un libro da leggere, magari qualcosa che tu hai letto da piccolo e che magari è ancora attuale, che cosa consiglieresti? Allora, io adoro Roald Dahl ed è una lettura che a me veramente ha aperto gli occhi e forse è stato il primo libro che leggendolo ho detto accidenti, avrei voluto scriverlo io, è sicuramente il GGG. È fantasia, è divertimento, è emozione, è capacità di ridere e capacità di piangere, e Roald Dahl ha questa capacità di essere buono e di essere cattivo e di adorare i bambini, di adorare la loro fantasia, la loro creatività e riesce a fare tutto ciò con le parole. Ecco, gli ascoltatori non ti possono vedere, ma ti stanno brillando gli occhi in questo momento, quindi c'è proprio passione anche in quello che racconti. Sì, mi piace e ci credo, insomma, è il modo migliore. C'è bisogno di onestà per lavorare con i bimbi, non puoi prenderli in giro, è difficilissimo prenderli in giro perché alla fine se non sei vero comunque loro ti scoprono, e si allontanano e non ti leggono più perché appunto non si fidano. Piccoli lettori sono destinati a diventare adulti lettori? Eh sì, però devono essere piccoli lettori anche di qualità. Ci sono genitori felicissimi perché i loro figli leggono e divorano decine di libri, però poi se vai a vedere sono libri di bassa qualità, magari sono o fumetti camuffati da libri o viceversa. Credo che figli di genitori che leggono sicuramente possono diventare potenziali lettori perché, sai, l'esempio, la testimonianza fa tanto. E poi bisogna avere il coraggio magari di chiedere consiglio ai bibliotecari, ai librai e offrire letture belle. Allora, se un bambino legge libri belli è un potenziale lettore. Un bambino che sfoglia libri brutti magari si stanca anche perché se poi non trova cose piacevoli dice perché devo leggere? E non si legge perché è importante, si legge perché è bello e questa cosa la trasmetti facendo leggere cose belle. Il cacciatore di libri. Scrivere per bambini e ragazzi, come si fa? Elisabetta Agnone è la creatrice della saga di Fairy Oak. C'è stata prima una trilogia, poi gli stessi personaggi hanno dato vita ad altri 4 romanzi. L'ultimo, tra l'altro, uscirà ad ottobre. E sul sito di Fairy Oak, di questo mondo fantastico appunto creato da Elisabetta Agnone, c'è proprio il conto alla rovescia per l'uscita dell'ultimo libro a questo punto. Dicevamo, Elisabetta Agnone è una grande esperta di scrittura per preadolescenti, ha lavorato per anni alla Disney, è stata lei tra l'altro a creare il fumetto delle Witch, le piccole streghe che hanno conquistato anche l'estero, anche gli Stati Uniti, in genere un paese da dove importiamo fumetti e non li esportiamo. E allora ecco come Elisabetta Agnone ci parla del mondo di Fairy Oak. Fairy Oak nasce dal desiderio di raccontare un luogo, come quello che c'è in Ferioco, cioè un villaggio, una comunità sperduta in una valle selvaggia a ridosso del mare, in un luogo che desse l'opportunità di raccontare molto la natura nei suoi diversi aspetti, nei suoi diversi momenti, e di un popolo che fosse ancora molto in armonia con l'ambiente in cui vive. Tu dici che questa non è una saga fantasy, ma più che altro è una fiaba. Perché? Qual è la differenza? Ma non sono un esperto, lo dico più di pancia che di così per vero sapere, ma del fantasy secondo me mancano in Ferioca alcuni aspetti importantissimi. Intanto il fantasy, lo immagino, i libri che ho letto sono un po' più cupi di Ferioca. Non c'è un viaggio, cioè in Ferioca non c'è un viaggio che invece è insito nei fantasy, e mancano un sacco di personaggi che sono tipici del fantasy, dagli orchi ai tutti quei personaggi un po' grotteschi, ecco, non c'è nulla di grottesco in Ferioca è una favola molto bucolica, se vogliamo, perché è molto descrittiva. Mi soffermo molto a descrivere l'ambiente, la natura, i fiori, le serre, le case, le verande, le pietre, molto materica, che è in sé una metafora, no? Perché poi si racconta la magia di questi personaggi che hanno questo potere creativo e distruttivo, ma in realtà per raccontare la magia della natura, l'equilibrio fragile della natura, che quando poi si sovverte ne nasce poi quello che ne nasce, di disastro o disarmonie. Infatti in Ferioc c'è molta magia, però a questo punto magia non vuol dire fantasy. No, magia, poi personalmente sono molto sensibile alla magia fine a se stessa, nel senso la trovo abbastanza stucchevole, per cui ho un senso e un ruolo. Nel primo progetto che ho fatto, che è stato Witch, era la metafora dell'adolescenza, no? Quindi la trasformazione, 5 modi diversi di trasformarsi in qualcosa in cui si spera, in cui si aspira o che non si conosce, insomma in queste nuove persone che si diventa quando si cresce. In Fairy Oak è la metafora della natura, no? Per cui è sempre emblematica, è sempre metaforica, ma non è fine a se stessa. Ci sono pochissimi incantesimi nel mio racconto, perché se poi tutto può essere risolto con una magia, allora non ci si diverte più. Invece i ragazzi, che poi sono i protagonisti, le gemelle con tutti i loro amici intorno, devono usare l'ingegno, devono unirsi, devono ragionare, devono sperimentare, sbagliare e poi quindi per giungere poi alla soluzione. La magia è un gioco, è il colore di questa storia. A chi sono diretti questi romanzi? Insomma, qual è la fascia di età? Sono diretti da ragazzini dagli 8 ai 12 anni, più femminile forse che maschile, anche se poi in realtà i premi che ha vinto il libro sono sempre stati dati dai maschi, che hanno apprezzato la parte più avventurosa, perché c'è un nemico, ovviamente l'equilibrio viene messo in pericolo da un nemico molto potente, per cui ci sono le battaglie e tutto. Però poi prevale l'aspetto invece più femminile, più quello che ho detto bucolico, più descrittivo, più intimo della storia, e quindi le ragazze. E poi con grande sorpresa scopro che mi scrivono delle signore di 30 e 30-40 anni a cui è piaciuto stare lì, nel senso che si sono proprio trovate a loro agio in questo luogo, dove io sono stata benissimo peraltro. Sono andata avanti a scriverlo anche perché mi piaceva starci, no? Quando scrivi sei nel posto in cui scrivi, no? Per cui io amo la natura, amo i fiori, amo i piccoli villaggi di pietra, amo il mare, amo il clima un po' forte, e ero in un posto giusto. Come si fa a scrivere per ragazzi? C'è qualche cosa di particolare che non può mancare per attirare la loro attenzione? Non so la formula, secondo me un po' ci devi essere dentro tutto, nel senso che io credo di non avere ancora, di non essere neanche arrivata alla fase dell'adolescenza, mi sono fermata un po' prima. Una cosa che ho imparato in Disney, da Disney e dalla scuola Disney, è l'attenzione al dettaglio, alla coerenza, non pensare che siccome scrivi per i più giovani puoi tirar via, puoi ingannare, anzi, devi essere molto attenta, generosa, dare tanto e rispettare l'idea originale, crederci fino in fondo. Poi quale sia l'alchimia che permette, che crea successo, è misterioso. Guarda, adesso non me la ricordo bene, te la riassumo brevemente, ma Thomas Mann diceva che ci deve essere una sorta di empatia tra chi scrive, di simpatia, di congiunzione tra il destino di chi scrive e quelli di chi leggono, no? C'è qualcosa nel tuo destino, nel tuo desiderio, nella tua aspirazione, nelle tue motivazioni che coincide in quel momento con chi ti sta leggendo. Evidentemente ci siamo trovati. Io dicevo prima, per me me scrivere voleva dire essere Ferioc, quando io ho finito la trilogia e non si parlava ancora della serie che sarebbe seguita, le bambine mi scrivevano non «Ah, ti prego, scrivi ancora perché non so cosa leggere», ma «Ti prego, scrivi ancora perché non so dove andare». «Dove vado?» mi scrivevano, che per me, cioè, vedi, è quello, le ho portate lì, per loro è piaciuto stare lì e c'è stato. Poi ci sono mille libri molto più belli che non vanno, libri molto più brutti, non so se ci sono, ma che vanno, per cui poi il segreto è difficile stabilirlo. Secondo me è una gran generosità, una grande attenzione, una grande coerenza e pensare molto a quello che si sta facendo. Scrivere appunto per ragazzi dagli 8 ai 12 anni vuol dire anche, ecco, dover conoscere il loro mondo, la loro realtà, insomma tu ti confronti anche con i ragazzini? Ma io no, nel senso che poi scopri di avere un tuo target, ma lo scopri dopo, nel senso che non potrei mai scrivere pensando a un target. Scrivo e ho scoperto che il mio target a quell'età, scrivo alla bambinità, perché se poi dovessi, non ho figli, ma se dovessi fare riferimento ai figli che potevo avere in casa, avrei scritto per loro e non per mille altri, perché i bambini di tutta Italia sono tutti diversi, vengono da esperienze diverse, famiglie, culture diverse, e quindi è difficile scrivere per quelli. Quando scrivi alla bambinità, becchi, vai nel mucchio, vai nel centro, e quindi poi scopri, io so di non poter scrivere per bimbi più piccoli perché non sono capace, e so che farei molta fatica a scrivere per ragazzi più grandi perché non ho i toni, non ho gli argomenti, non so gestire bene quegli argomenti, no? Per cui mi trovo benissimo in quella fascia di età, e evidentemente ci troviamo bene l'uno con gli altri, fin qui è andata bene. Abbiamo detto che la saga di Ferioc non è un fantasy, però insomma quando si pensa a un mondo magico, a un target dagli 8 anni in su, il pensiero va sempre ovviamente a Harry Potter, anche se sono cose molto diverse. Tu l'hai letto Harry Potter, ti piace? Dunque, io e mio marito in luna di miele a Cuba leggevamo Harry Potter, ci siamo portati i primi 3 libri di Harry Potter e Camilleri, rialzo un po' la bilancia d'altra parte, e noi abbiamo passato il tempo a scoprire Cuba leggendo Harry Potter, e i primi 3 li abbiamo amati molti. Poi personalmente capita un po' la dinamica, hanno smesso di essere così interessanti per la mia età, però la fantasia che lei ha messo in questo mondo e soprattutto secondo me ha fatto una cosa importante, ha ricordato agli adulti che la magia, la favola, il superare i propri limiti è una cosa che ai bambini piace moltissimo, mancava dagli scaffali delle librerie la magia, no? Basta favole, basta fate, basta streghe, i bambini devono imparare a vivere leggendo la realtà. Ma chi l'ha detto? In realtà c'è un'età, secondo me ogni età ha diritto alla propria letteratura, e c'è un'età in cui i libri che ti danno la speranza che il bene possa vincere sul male, che puoi superare i tuoi limiti senza essere un dio, senza essere un supereroe, ma un ragazzino in realtà anche orfano, maltrattato, che c'è questa possibilità, che c'è sognare di superare i propri limiti, è un diritto che non si può levare a nessuno. I bambini gli hanno detto dateci tutti i libri di realtà che volete, storici, quello che volete, noi ci leggiamo Harry Potter. E quindi gli adulti si sono molto stupiti, ma come mai il ritorno della magia? Chieditelo, non lo so, vedi un po', chissà, anche agli adulti piace sognare, anche agli adulti piace pensare di poter superare i propri limiti, per cui... Grande, grande Rowling, ha riportato la magia, la fantasia nelle librerie. Harry Potter conquista veramente tutti, ha conquistato anche Elisabetta Gnone. Andiamo avanti però con la fascia di età, arriviamo a quella più critica, dai 16 ai 17 anni in su, lo sappiamo, da qui poi inizia la debacle, possiamo dire così, insomma si inizia a leggere sempre molto, molto meno. Eppure negli ultimi anni sono diversi casi letterari che vengono creati appunto per gli adolescenti. A livello internazionale, per esempio, la saga dei vampiri, quella di Stephanie Meyer, insomma per intenderci Twilight e dintorni. Fra gli italiani invece abbiamo un esempio, Federico Moccia, 3 metri sopra il cielo, Scusa ma ti chiamo amore, ho voglia di te, insomma sono libri che sono diretti soprattutto ai giovanissimi. E sempre fra gli italiani ha avuto un grande successo fra i ragazzi quest'anno il romanzo dell'esordiente Alessandro Alessandro D'Avenia, Bianca come il latte, rossa come il sangue, un romanzo sugli adolescenti dedicato appunto agli adolescenti. E D'Avenia, tra l'altro, gli adolescenti li conosce bene perché insegna lettere in un liceo di Milano. E allora, come si scrive per ragazzi? Sentiamo D'Avenia. Io non credo che ci sia una grossa differenza dallo scrivere per adulti. Quando ho cominciato a scrivere questo romanzo non avevo intenzione, non ho mai avuto l'intenzione di fare lo scrittore. Io quello che voglio fare è scrivere, perché scrivere per me è un modo di stare nella realtà, per rispondere ad alcune domande che si agitano dentro e che non riesco magari a tematizzare in maniera chiara nella mia testa, nel mio cuore, ho bisogno di scrivere. Quindi il primo pubblico a cui ho pensato era appunto me stesso, dovevo scoprire delle cose che si nascondevano nella pagina bianca. E questo è stato garanzia poi del fatto di parlare a tanti cuori, ma appunto tanti cuori non solo di ragazzi ma anche di adulti. E mi scrivono genitori, mi scrivono colleghi che si ritrovano nella descrizione dei personaggi adulti, ma anche ritrovano quello di cui parlavamo prima, questa adolescenza che hanno avuto, e provano appunto a conservare cos'è dell'adolescenza che io voglio conservare per tutta la vita. Questo è il grande regalo che mi ha fatto il romanzo, che forse è l'ingrediente che convince molti lettori adolescenti, che c'è per la prima volta questa apertura alla realtà con una sete di bellezza, di bene, di verità, che poi inevitabilmente nel corso della vita un po' si offusca per i ruoli che acquisiamo, per la fatica, per la routine. E quindi quello che vedo è che gli adolescenti si entusiasmano perché trovano quello che stanno vivendo, gli adulti si entusiasmano perché ritrovano una cosa che forse avevano perso. E anche per questo speciale dedicato a come si scrive per bambini e ragazzi è tutto. Ricordiamoci naturalmente che se vogliamo un paese di lettori bisogna naturalmente iniziare dalla piccola età. Un saluto da Alessandra Tedesco.